24, il sole 24 ore. Napolitano, crisi delicatissima e cruciale, il premier incaricato Monti al lavoro, inizia le consultazioni alla ricerca di un'ampia maggioranza, Fini fiducia entro venerdì. Partenza positiva per la borsa con gli spread in discesa, poi cautela sui mercati finanziari. Ma chi è Mario Monti? In questi giorni lo si è visto senza scorta col trolley tra i palazzi romani della politica, varesino e amante della bicicletta. Iran sul nucleare, la Gran Bretagna preme, non escludiamo nessuna opzione, nemmeno quella militare. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque continuiamo a seguire passo dopo passo la crisi politica che ieri sera ha visto uno snodo importante con l'assegnazione dell'incarico a formare un governo da parte del Presidente della Repubblica Napolitano a Mario Monti, che ha accettato con riserva. Da questa mattina il via alle consultazioni dei partiti politici. E allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, occhi puntati ieri sul Quirinale, oggi su Palazzo Giustiniani, palazzo a ridosso del Senato dove Mario Monti ha il suo studio. I primi ad arrivare, i presidenti delle Camere Schifani e Fini, quindi le minoranze linguistiche, poi vari rappresentanti del gruppo misto. Nel pomeriggio alle 16.30 sarà la volta dell'Italia dei Valori, alle 17.15 della Lega Nord, quindi alle 18 il Terzo Polo si chiuderà domani, la mattina Partito Democratico e Popolo della Libertà, nel pomeriggio le parti sociali. Ore intense dunque per il Presidente del Consiglio incaricato per sondare la disponibilità delle forze politiche a votare un limitato numero di provvedimenti, le misure chieste dall'Europa all'Italia. Non mancheranno i sacrifici, lo avrebbe detto lo stesso Monti alla delegazione repubblicana, sacrifici che saranno però accompagnati da interventi sulla crescita, ha spiegato il segretario Nucara. Con la delegazione di Fare Italia, Monti avrebbe parlato di interventi strutturali per abbattere il debito e far ripartire la crescita, ma ascoltiamo su questo Adolfo Urso. Pensiamo che il governo che il professor Monti realizzerà nelle prossime ore, un governo tecnico, con personalità di alto valore, possa anche essere una opportunità per la politica per giungere poi, come tutti ci auguriamo, a un bipolarismo normale in cui si possono confrontare poliriformisti nel segno del bipolarismo europeo. Della situazione politica è tornato intanto a parlare il capo dello Stato, Napolitano, l'ha definita delicatissima e cruciale. Quanto ai tempi per la formazione del nuovo governo, qualora Monti dovesse sciogliere la riserva, si andrebbe mercoledì mattina al giuramento, giovedì fiducia al Senato, venerdì alla Camera. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, ma quali sono gli equilibri tra politica e tecnici attorno ai quali si sta muovendo il ex commissario europeo Mario Monti? E quindi anche e soprattutto quello che tutti vogliono sapere, quali sono i nomi su cui si sta lavorando? Anche se ieri è stata chiesta e invocata prudenza sui nomi, ma cerchiamo di fare luce su quello che si sa con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, Toto Ministri, al via con il PDL che mette i paletti, va bene un governo di tecnici, dice Angelino Alfano, basta che non siano ostili a noi. Il premier incaricato Mario Monti non vorrebbe quindi cedere alle pressioni dei partiti e mettere solo ministri tecnici, anche perché i veti incrociati potrebbero poi allungare troppo i tempi della crisi. C'è ancora l'incognita di Giuliano Amato, che oggi con una battuta chiosa tra politico e tecnico sono ermafrodita. L'ex premier è indicato come prossimo ministro degli esteri. Intanto Monti vorrebbe un esecutivo snello, super ristretto a 12 ministri. Tra i nomi che si fanno all'interno, il prefetto Anna Maria Cancellieri, alla difesa il consigliere di Napolitano, l'ex capo di Stato Maggiore della difesa Rolando Mosca Moschini. All'ambiente il direttore del ministero, Corrado Clini, alla cultura l'archeologo Salvatore Settis, Andrea Riccardi, Guido Tabellini all'economia, al welfare Carlo Darringa, docente di economia politica, allo sviluppo economico il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà oppure Carlo Secchi, alla giustizia Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, e alle infrastrutture si fa il nome di Rocco Sabelli. Come vedete, tutti nomi per lo più sconosciuti al mondo della politica. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito e ci scusiamo anche per la linea telefonica non perfettamente funzionante con Roma. Ma il primo esame al quale Mario Monti era atteso era sicuramente quello dei mercati. abbiamo già detto, partenza positiva con gli spread in discesa, e a metà giornata, Deborah Rosciani, qual è la situazione? La situazione è cambiata radicalmente, i listini europei sono tutti quanti negativi, Milano compresa, che sta perdendo l'1,43%. C'è da dire che però gli analisti sostengono che questa inversione di tendenza è stata provocata dalla forte discesa del dato della produzione industriale dell'Eurozona, -2% a settembre, quindi i mercati hanno accelerato appunto al ribasso, anche le altre piazze perdono in linea con Milano, però naturalmente Milano oggi è particolarmente sotto i riflettori, i titoli bancari vanno su strade differenti, oggi teniamo sotto osservazione Unicredit perché il gruppo vara un imponente piano di ricapitalizzazione da 7,5 miliardi, lo sapremo nelle prossime ore, e in più altro esame del mercato, l'asta di titoli a 5 anni, di buoni del tesoro poliennali a 5 anni appunto, che si è svolta questa mattina, molto ben riuscita perché il mercato ha richiesto tutti i titoli offerti dal tesoro italiano, 3 miliardi di euro, anche se l'importo era leggermente inferiore, però ha chiesto un rendimento, una remunerazione molto alta al 6,29% ai massimi del giugno 97. E per ora è tutto. Grazie dunque anche a Deborah Rosciani. Ma veniamo al possibile programma di un esecutivo a guida Mario Monti. Sentiamo a che cosa l'ex rettore della Bocconi sta lavorando. I nostri sforzi saranno indirizzati a risanare la situazione finanziaria, a riprendere il cammino della crescita in un quadro di accresciuta attenzione all'equità sociale. Così Mario Monti ieri, dopo aver ricevuto l'incarico da Napolitano, ha dettato l'agenda del suo esecutivo. Il nuovo governo cercherà innanzitutto di mettere subito in sicurezza i conti pubblici con provvedimenti forti, in grado di rassicurare i mercati. Poi passerà alle misure per la crescita. Tra le ipotesi, un intervento correttivo di almeno 25 miliardi. Tra le misure si pensa alla patrimoniale, che potrebbe però essere soft, sopra la soglia degli 1,5 miliardi, e al ripristino dell'ICI sulla prima casa. Degli interventi urgenti dovrebbe far parte anche un apposito capitolo anti-evasione, per dare un messaggio al Paese sull'equità. Capitolo imperniato sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, già sopra i 200-300 euro. Sulle questioni più sensibili, quali il lavoro e la previdenza, Monti vorrebbe aprire un tavolo con le parti sociali. I suoi obiettivi sarebbero però già definiti. In tema di pensioni, l'adozione del sistema contributivo pro rata, accelerando anche il percorso per l'abolizione dei trattamenti di anzianità. In tema di lavoro, l'idea sarebbe quella di un pacchetto che prenda spunto dalla proposta Ichino sulla flessibilità in uscita. E poi ancora liberalizzazioni, privatizzazioni e dismissioni, tagli ai costi della politica e ai privilegi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una carriera accademica e istituzionale modello, ma di Mario Monti si sa poco della sua vita privata. Sentiamo allora che cosa è riuscito e come è riuscito a descriverlo, senza naturalmente forzature sulla sua privacy, il nostro Dario Ceccarelli. Detto Super Mario o lo zar antitrust per la sua severità come commissario europeo, Mario Monti è nato il 19 marzo del 43 a Varese. 15 giorni dopo un altro italiano famoso, quel Lucio Dalla, che diceva di venire dal mare. Ma Monti, come dice il nome, ama di più i paesaggi severi delle Alpi o i rilievi più dolci che circondano Varese, luoghi cari ai pedalatori e allo stesso Monti, che, come Prodi, guarda la coincidenza, è appassionato di due ruote. Nel 51, insieme al padre, in occasione dei mondiali di ciclismo, Monti affrontò il circuito lungo le salite del Brinzio, una gita che il nuovo senatore a vita ha ripetuto tante altre volte nei periodi di vacanza. Uomo sobrio sia nel vestire che nell'apparire, per molti aspetti Monti è un perfetto contraltare del cavaliere. L'Oden Verde, della sua vita privata si sa poco, forse perché con tutti gli impegni che ha assunto ne ha ben poca. Con la moglie, come si è visto, va ogni domenica a messa, ma pur avendo studiato dai gesuiti non è tipo da porgere l'altra guancia, se ne accorse Billy Gates quando Monti, come commissario all'antitrust, inflisse alla Microsoft una multa record di 500 milioni di euro. Fatti non parole, meno ancora barzellette. Monti ama far tornare i conti, l'ordine creativo e la razionalità. Di razionale ha solo la paura per i gatti neri, che di sicuro in questo suo nuovo cammino nella politica dovrà scansare. E voltiamo pagina, chiudiamo dunque per il momento con le notizie dell'ampia pagina politica. Da oggi stop ai processi per una settimana, sciopero dei penalisti per 5 giorni per denunciare quello che definiscono un vero e proprio attacco al diritto di difesa. Ci spiega le ragioni della protesta Valerio Spigarelli, presidente dell'Unione Camere Penali. L'ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Noi abbiamo denunciato alcune prassi che minano alla base il diritto di difesa. Faccio riferimento per esempio alla circostanza che molto spesso ritroviamo in atti processuali le conversazioni tra avvocati e i propri assistiti, che pure è vietato intercettare naturalmente. Oltre a questi segni di intolleranza verso il diritto di difesa, abbiamo riscontrato che la via della riforma dell'ordinamento forense si è interrotta. Vi è poi la questione della mancata affermazione della terzietà del giudice e dunque della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice. Se volessimo condensare in poche parole le vostre richieste. In primo luogo che si licenzi una norma che è in Parlamento, che vieta assolutamente di trascrivere le conversazioni tra assistito e suo difensore, anche se per avventura ne avvenga l'ascolto. La seconda è che si dia corso ad una riforma dell'ordinamento forense che introduca la specializzazione. La terza è che finalmente la politica ricominci a dibattere della questione della terzietà del giudice. E ora la nostra rubrica dedicata alla lotta all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Da 15 a 40 miliardi di euro. L'Italia, d'un colpo, potrebbe trovarsi in cassa una cifra che vale una mini manovra che di questi tempi butta la via. Nessun taglio ai servizi ai cittadini, nessun prelievo forzoso, solo una stretta di mano. Si potrebbe infatti ricavare questo gruzzolo da un accordo con la Svizzera, siglato già da Gran Bretagna e Germania. In Italia il tentativo è stato quello, promettendo condoni, di far rientrare i capitali. L'ultima volta è stata nel 2009-2010, ma in realtà quelle somme erano all'estero e lì sono rimaste. Quanto si può recuperare? Londra e Berlino hanno stretto accordi con un'aliquota che va dal 19 al 34%. L'Italia finora ha portato avanti trattative sotterranee, ma ufficialmente ha detto no, in nome della trasparenza. Infatti gli euro rientrati sarebbero anonimi. Peccato che tanti scrupoli per la trasparenza non ci siamo fatti con lo scudo fiscale, la cui aliquota era di appena il 5%. Alla signora Merkel l'accordo è fruttato 4 miliardi, i tedeschi hanno però un'evasione estera molto più bassa della nostra. Si calcola infatti che la nostra ammonti a circa 200 miliardi di euro e il 70% starebbe proprio in Svizzera. Si arriva quindi a quella forbice che, secondo l'aliquota che verrebbe applicata, potrebbe andare dai 15 ai 40 miliardi di euro. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E prima di proseguire con le altre notizie tiriamo il fiato, parliamo di calcio con un sorprendente Moratti che oggi dice Balotelli lo riprenderei, Carlo Genta. Sì, Balotelli lo riprenderei, l'ha detto Moratti in occasione della consegna che è in corso a Michel Platini del premio Facchetti, cerimonia che si svolge in Gazzetta dello Sport. È arrivato Moratti, gli è stata fatta questa domanda, Balotelli lo riprenderei domani mattina, ha detto il presidente dell'Inter, ho sempre avuto molta stima di lui, sta facendo un ottimo lavoro grazie a Mancini, questa esperienza in Inghilterra lo sta maturando. E poi gli è stato chiesto, ma sei pentito di averlo fatto scappare? Lui ha detto, non era possibile trattenerlo perché erano successe cose strane, però ora è maturato, le cose cambiano e chissà, ti ricordi Alessio che Balotelli aveva detto una settimana fa all'Inter, ma tutto sommato tornerei, basti che non mi scassino la macchina al centro di Milano. Però insomma, cerimonia molto interessante, anche Platini ha parlato, poi lo sentiremo, ha detto molte cose, soprattutto su Prandelli, gli è stato chiesto, ma è l'uomo giusto? Sì, certo, è stato mio compagno di squadra, abbiamo giocato insieme, quindi ha imparato tante cose, ha detto grosso modo Platini. Dunque, cerimonia in corso, dichiarazioni che stanno uscendo e che sono interessanti quanto a Balotelli, intanto per certo sappiamo che domani giocherà nell'Italia, sarà contro titolare dell'Italia contro l'Uruguay in coppia con Osvaldo. Alessio. 13:18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della situazione politica. Napolitano ha detto crisi delicatissima e cruciale. Il premier incaricato Monti è al lavoro, ha iniziato le consultazioni alla ricerca di un'ampia maggioranza per il presidente della Camera Fini. La fiducia arriverà entro venerdì. Partenza positiva per le borse con gli spread in discesa, ma a metà giornata c'è meno fiducia e più cautela sui mercati finanziari. Ma chi è Mario Monti? Radio 24 tenta un suo ritratto. In questi giorni lo si è visto senza scorta col trolley tra i palazzi romani della politica. Varesino ha studiato dai gesuiti e amante della bicicletta. Adesso tutte le altre notizie. E andiamo subito all'estero, perché la crisi dei debiti dell'Eurozona continua però a essere al centro del dibattito internazionale. Al vertice dell'APEC, che riunisce i paesi dell'area pacifica e dell'Asia, la direttrice generale del Fondo Monetario Lagarde ha sottolineato che senza una soluzione della crisi dell'area euro sulla ripresa economica globale continueranno a gravare dei rischi. Per il presidente degli Stati Uniti l'area Asia-Pacifico è assolutamente essenziale per la crescita degli Stati Uniti, ma è anche una recessione in Europa avrebbe, ha detto Obama, un impatto sulla crescita e sull'occupazione americana, la quale invito a tutti i paesi a fare ognuno la propria parte, a giocare secondo le regole, ha detto ancora Obama, riferendosi in particolare alla politica valutaria cinese. Quello che sentite è proprio Obama. Salutiamo con piacere la pacifica crescita economica della Cina, ha detto, e nell'interesse degli Stati Uniti che continua che centinaia, scusate, di milioni di persone escano dalla povertà, ma uno yuan sottovalutato mette in una situazione di svantaggio le aziende americane, ha detto Obama, e per questo sulla politica valutaria cinese saremo fermi. Immediata la replica cinese: il deficit commerciale statunitense e la debolezza del mercato del lavoro non sono causati dal tasso di cambio dello yuan, ha detto il presidente Hu Jintao. Ma è sul dossier iraniano, sempre più caldo in queste ore, che a quanto pare potrebbero invece convergere gli interessi di Washington e Pechino. Il tema del nucleare iraniano non attiene strettamente alle vicende economiche dell'area pacifica, ma all'APEC è stato ben discusso e Obama lo ha esplicitato senza problemi. C'è un ampio consenso, ha detto, sul bloccare il programma nucleare di Teheran, che non si vuole conformare alle regole internazionali. Il presidente americano parla di diplomazia e nuove sanzioni e lascia intendere che ci sia una possibilità d'intesa con i due big con cui si è appena confrontato al vertice, Cina e Russia, da sempre schierate con l'Iran. Ma quando poco dopo la Gran Bretagna fa sapere di non escludere l'opzione militare contro Teheran, il ministro degli esteri russo Lavrov denuncia subito una campagna orchestrata per imporre nuove e inutili sanzioni che la Russia non condividerà. La Cina per ora tace, ma potrebbe essere solo una questione di tempi di reazione. Germania e Lussemburgo rifiutano l'ipotesi militare e pensano semmai a nuove sanzioni, sulle quali insiste già la Francia. Intanto, sull'esplosione avvenuta due giorni fa in un deposito di munizioni alle porte di Teheran, una fonte di intelligence occidentale ha rivelato al settimanale americano Time che si sarebbe trattato di un'azione del Mossad israeliano, che farebbe parte di un piano di sabotaggio più ampio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ci sono le dichiarazioni del commissario ad affari economici Olli Rehn a proposito della situazione italiana. Leggiamole. La nostra diagnosi sull'economia italiana non cambia solo perché è cambiato governo in Italia, ha detto poco fa il portavoce del commissario Olli Rehn. Monti nel suo discorso è stato chiaro fin da subito nel sottolineare la necessità di rigore ed equilibrio tra consolidamento di bilancio e riforme strutturali. Così sempre il portavoce del commissario affari economici Rehn ha commentato le parole del presidente del Consiglio incaricato Mario Monti. E ora proprio in Italia torniamo con la cronaca. Il delitto dell'olgiata. Manuel Winston Reyes, reo confesso dell'omicidio di Alberica Filo della Torre, è stato condannato a 16 anni di reclusione. Lo ha deciso oggi, questa mattina, il GUP del Tribunale di Roma. L'ex domestico di Casa Mattei, in base a quanto si apprende, è stato condannato con il rito abbreviato, che dunque consente uno sconto di un terzo della pena, ma solo per l'accusa di omicidio volontario. E ora sempre per la cronaca, una storia che sembra un film. 10 chili d'oro, valore 400.000 euro circa, sono partiti da Arezzo, diretti a Bruxelles, ma sono spariti nel nulla. All'arrivo nella capitale belga, infatti, la sorpresa: nelle scatole al posto dell'oro c'erano dei pesi da palestra. Il grande colpo dei 7 uomini d'oro. Stavolta la posta è però colossale, un carico d'oro da farvi star male. Lingotti a miliardi, il più grande tesoro rubato in tutta la storia dell'oro. Di colpi perfetti il cinema ne ha messi in scena tanti, ma spesso la cronaca supera la migliore delle sceneggiature. Ed è proprio una storia da film quella che arriva da Arezzo. Meglio, parte da Arezzo con un carico d'oro e arriva a Bruxelles con pesi da palestra. Lungo la strada l'Interpol sta cercando di capire dove e come il prezioso carico svanisce. 10 giorni fa dalla Chimet, azienda toscana specializzata nel recupero di metalli preziosi da scarti di lavorazione, partono i 10 chili d'oro, valore 400.000 euro circa, a bordo di un furgone portavalori diretto a Valenza Po nell'Alessandrino. Da qui le scatole, dopo il trasbordo sul mezzo di un'altra agenzia portavalori, arrivano all'aeroporto di Malpensa, dove vengono caricate sotto scorta su un volo di linea Milano-Bruxelles. All'arrivo nella capitale belga, l'amara sorpresa. Il carico era assicurato, proprio per questo tutte le fasi del trasporto sono state filmate. Dai video già visionati, per il momento non sarebbe emerso nulla di irregolare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora due appuntamenti. Il primo, una serata speciale del Pri Italia. Questa sera al Piccolo Teatro Streller di Milano alle 19.30 sarà presentato per la prima volta in Italia su grande schermo il Colossal Rigoletto a Mantova, film girato e trasmesso nel settembre 2010 in 148 paesi, in diretta Mondovisione dai luoghi e nelle ore previsti dal libretto del capolavoro di Giuseppe Verdi. E ora invece una mostra da Bacon, circa 60 opere tra dipinti e sculture, sono in mostra da domani al 12 febbraio dell'anno prossimo alla Permanente di Milano. Nuove immagini in Europa negli anni del rock è il sottotitolo, presenta la storia di una ricerca figurativa che a cavallo degli anni 50 e 60 del Novecento prese le mosse dalla lezione di Bacon, di Giacometti e di altri grandi maestri dell'epoca. Adriana Fracchia ha intervistato Michele Tavola, che è uno dei due curatori. Si vede un ritratto di John Baez fatto dal maestro del realismo esistenziale milanese Guerreschi, ma si vede anche un'opera come Peter Blake utilizzata per la copertina di Sgt. Pepper dei Beatles, definito da molte riviste il disco più importante della storia del rock, e l'unico Grammy Award vinto da Sgt. Pepper è stato per la copertina di Peter Blake. E poi c'è un quadro straordinario di un pittore molto importante ma quasi sconosciuto in Italia, che si chiama William Untermolen, che dipinge una grande bandiera americana squarciata da frammenti di mani e volti che trasudano dolore, ed è stata fatta nello stesso periodo in cui Jimi Hendrix squarciava a Woodstock le note dell'inno americano con la sua chitarra elettrica, riproducendo i suoni delle bombe sganciate dagli aerei e le urla della popolazione civile. E ora siamo in chiusura e vogliamo tornare a parlare della notizia di apertura alle consultazioni di Mario Monti ai partiti politici. Sentiamo il commento del professore economista Giacomo Vaciago, amico di Mario Monti, come sta lavorando in queste ore secondo lui. Tutto ciò che questo governo porterà a Montecitorio e al Senato dovrà avere una maggioranza, e quindi per definizione i governi non sono mai tecnici. Attenzione, Monti ha chiaramente il discorso in mente di un governo straordinario, di emergenza, di unità nazionale che fa ripartire il paese e riduce il debito. A questo punto solo gli autoesclusi, ma devono essere veramente pochi, perché con questo spirito, non dirò il 100% perché ovviamente non ha senso, ma dovrebbe avere almeno l'80% dei voti, normalmente. Dopodiché ci vuole gente competente, ci vuole gente austera nei costumi, gente che va a piedi, come ieri mattina Mario Monti è andato a messa a piedi per le strade senza paura di insulti o di altro, basta con le auto blindate. Ed è tutto, vi lasciamo all'Italia in controluce, da Alessio Maurizio in studio e Fabio Cantadori in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.